Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, nella trasmissione di oggi cercheremo di non dare i numeri ma di parlare di principi giuridici, di camici e suggeriremo una soluzione eccellente per far perdere l'appetito agli ascoltatori. Vabbè,